GR24 Sport. Buongiorno da Dario Ricci. In primo piano il Tour de France. Oggi giornata di riposo, ma la crono di ieri a Besançon ha fatto della maglia gialla Wiggins il grande favorito per la vittoria finale. Oggi il Tour riposa, tira il fiato dopo 10 giorni di corsa, di tanti chilometri di pianura, moltissime cadute, due belle tappe di media montagna e una cronometro, quella di ieri, che ha setacciato letteralmente il buco in maniera profonda. Saldamente in maglia gialla il britannico Bradley Wiggins, grande T-star convertito alla strada dopo i titoli mondiali e ori olimpici vinti su pista. Ora l'Inghilterra sogna una vittoria che al Tour non c'è mai stata. Ieri Wiggins, che qualche anno fa ha sofferto di depressione e alcolismo, a Besançon ha sbriciolato letteralmente la concorrenza con facilità disarmante. A farne le spese soprattutto il diretto avversario, l'australiano Cadel Evans, l'ultima maglia gialla di Parigi, che ieri ha lasciato per strada quasi due minuti. Bene il nostro Nibali, che specialista non è, ma è riuscito a chiudere in ottava posizione pagando 2 minuti e 07. Ora nella generale Wiggins comanda con 1.53 su Evans, 2.07 sul compagno di squadra Tom e 2.23 sul nostro Nibali, che è scivolato in quarta posizione. Oggi il Tour riposa, domani si ricomincia con la prima tappa alpina da Macon a Bergara sul Val Thère. Per il stagio era 24, il sole 24 ore, Besançon. Prime dichiarazioni stagionali di Francesco Totti e passiamo al calcio. È primo giorno di lavoro del Milan ieri a Milanello. Partiamo dal capitano romanista, smanioso di tornare a vincere sotto la guida di Zeman. Io spero che non sia un anno di transizione, anche perché conoscendo la piazza non so se aspetta e ha voglia di aspettare un altro anno. Ma loro come noi tutta la squadra scendiamo in campo per vincere e ottenere risultati importanti, e sapere che quest'anno è un altro anno di transizione non mi va bene a me, ma penso a tutta la squadra e anche alla società. In questo momento non siamo una Roma competitiva come lo è la Juve, il Milan, l'Inter. Aria di rinnovamento anche a Milanello, partiti tanti, senatori Gagliani non esclude che le sirene per Thiago Silva e Ibrahimovic tornino a farsi sentire. Rimarranno, ma che ne so, il mercato è lunghissimo, quindi tutto è possibile nella vita. Questo non vuol dire che sto aprendo il fatto che vanno via. Io un anno fa alle ore 13 non avrei mai immaginato che Nocerino sarebbe arrivato al Milan, quindi facciamo una bella cosa, ma non per Thiago Silva, per Ibrahimovic, non dico più niente al mercato. Vi comunicherò alle 19.01 del giorno 31 agosto quale sarà l'organico del Milan, che sarà un organico competitivissimo. Per Allegri, terza stagione in rosso nero, nuova partenza. È un anno diverso dai primi due, diverso perché quest'anno nello spogliatoio del Milan vengono a mancare tanti giocatori che hanno fatto un pezzo di storia del Milan, quindi è come se fosse per me il primo anno, perché c'è da ripartire da zero e bisognerà avere la voglia soprattutto di rivincere l'anno scorso, visto che l'anno scorso ci davano tutti per super favoriti. Come è dimostrato, nel calcio non c'è niente di facile. Niente panchina della Russia, Roberto Mancini resta alla guida del Manchester City, fresco campione d'Inghilterra, contratto rinnovato e che scadrà nel 2017. Le Olimpiadi di Londra 2012, a 18 giorni dal via, ufficializzata la squadra azzurra di pallavolo maschile con 9 debuttanti e i 3 veterani Fei, Papi e Mastrangelo. Gli azzurri durante il raduno collegiale a Modena hanno incontrato gli abitanti di Mirandola e delle altre cittadine colpite dal sisma. Il commissario tecnico Mauro Berruto. Abbiamo voluto anche andare a farci sentire ancora e a vedere la città di Mirandola, non tanto per guardare da vicino le macerie e vedere il disastro che è successo, quanto per andare a incontrare queste persone che ci hanno dimostrato un'energia, una chiarezza di idee, una voglia di ricominciare, una progettualità nel ricominciare che ci ha fatto fare il pieno di energia anche noi. Chiudiamo col basket, doppia amichevole di prestigio per il Montepaschi Siena, campione d'Italia, che il 6 e l'8 ottobre affronterà negli Stati Uniti San Antonio Spurs e poi i Cleveland Cavaliers. E per lo sport è tutto, ancora una buona giornata.